se è brutto o se è buono. Aspetta, se me ci permetti, lo prenderò proprio. Attaccalo. Tanto tu fa la cosa. E poi tu ci sei armato. No, ero a cosa, tu, ero a Argentina, ero in Argentino. E poi stavo sciare, adesso sei in completo perché sono andato a trovare degli amici, giù. E poi quando l'hai visto tu sicuramente l'hai visto stato quando stavo salendo, saranno state le 7:30, 8, può essere. Oh, più chizzo era. Ma forse può essere. Hai ragione, sì, stavi salendo. Stavo salendo, sicuramente. Stavo salendo in moto. E sono uscito in moto ieri, anche perché c'era troppo caldo, e macchina non fanno. Quando c'è la possibilità di usarla, visto che lavoro anche il sabato adesso, sto lavorando il sabato pure, capito? Quando mi tocca, mi tocca lavorare anche il sabato, quindi lavoro il sabato e c'è la domenica libera. Diciamo che non è sempre che lavoro il sabato, però può capitare che ci sono urgenze e quindi lavoro anche il sabato mattina, anche il sabato sera, perché il sabato sera poi sono a casa. E a tu giusto per, e la domenica non è facendo andare al mare, giusto per prendere per un po' di sole, per annaffare il tempo, come si può dire. Sempre un attesi. K, centro elettromeccanico. Centro stesso lavoro. Ma con un altro o no? Ma non sono sempre la stessa ditta, anche io, capito? Sono sempre la stessa ditta. Ero fermo 4 mesi, adesso ho ripreso di nuovo da capo, capito? Attenzione Antonio e Franco, vedete un po' come sta andando questo apparecchio. Ora. Io ti ascolto bene Gianni. Ti ascolto bene già. Bene. Ma hai detto che poi dovrebbe una cuba che anche ieri. E anche la che c'è che non fa male. Vabbè, comunque io già mi ascoltavo, ti ascoltavo bene, perché mi avevo messo il coso come monitor, ma magari mi spaccia. Mi sono messo il baracchino come monitor, e c'è forte quasi quanto l'altro. Ah, io pari benissimo, 9:40, sì, già, la radio va bene, io ti ascolto bene, sono qui già il nostro. Ognuno c'è la sua ricezione, capito? Magari da parecchio a parecchio cambia, non so cosa dirti. Andar bene vela, riprendi a tu. No, io già l'ascolto bene, sono anche gli acuti ci sono. No, va bene già, no? Ha voglia, cosa più di questo. C'è il reverbero, cioè quando lui è naturale dell'apparecchio. Prova a metterlo senza eco a vedere come esce senza eco, per rendersi conto di più. Così senza eco, guarda, 1, 2, 3, prova. Quindi così per amplificazione io non sento però già. No, così fra. Questo qui è un microfono normale, no? Ho messo l'eco dell'apparecchio, poco fa. Così, guarda. Così senti anche l'amplificazione perché c'è l'eco. Eglia. No, già va bene. Io ho recuperato uno di quei microfoni, ti ricordi i microfoni che ho montato il Tokai, il 504, cioè il 5024, quello della rotella della preamplificazione che praticamente viene alimentato con la batteria da 1,5. Cappa, io ho capito. C'è uno di quelli anche io, capito. L'avevo messo della verità sulla 68, però non spinge come deve spingere. Sono un microfono un po' particolare, magari ci vuole l'apparato suo, o un apparato che si adatti, non tutti i microfoni si adattano. Infatti, come dico io, devi trovare sempre l'apparecchio che vada bene. Perché io ho il 548, cioè il 68 qua, l'ala, e te lo faccio sentire col microfono, col preamplificato ed è una bomba. Ci credo, soprattutto con quel lì, già il 68 esce di suo, se tu metti un microfono CD già esce di suo, forte, esce di suo, beh, immaginiamoci con microfono amplificato, 68 e 48 è così, però c'è quella maledizione, cioè meno male che nuovo che hanno fatto il DSX gli hanno tolta. Penso che pigliava questo e battimenti a tutti i parti, quasi. Adesso quel DSX non lo fa più. Allora io ho il 68, ed è del 1900, mi pare che è da 78, 1978, perché c'è nella targhetta. Il primo 68 che era uscito a 34 canali, che poi l'avevo modificato, l'avevo messo il contatore dei 40 anche. Quella è una bomba, amico, l'apparecchio. Quell'apparecchio c'ha tutta, all'inizio della scheda, ecco. No, adesso sono buone già. Già vanno bene. Adesso il 68 c'è, però mi sembra che ci sia ancora, però sono uscite la nuova generazione PSX. No, forse non lo fanno più, fanno il 48 PSX adesso. Che è molto migliore come. Non è come quello lì che prende battimenti, che no, a carasci, no, non comprende più nulla, è diverso completamente, ed è migliore questo che è uscito adesso, e purtroppo quelli lì li facevano così, ma comunque erano dei buoni. Hai sentito Franco? Caspita, niente da dire. Sulla modulazione sono sempre stati mondiali, sono sempre stati migliori, sulle modifiche. Però non è una maledizione. Bravo, ve lo faccio io. La verità non ha mai problemi, ma tu. Sempre funziona benissimo, non hai problemi. Ce l'ho qua e va bene. No, di funzionare funzionava benissimo, no? Quello è stato fatto. E capito, se mi devo su un altro canale non comprendi più nulla, e tu già lo sai. Sì, vabbè, c'è una roba di mandetta comunque, come a livello del 543 che sono attesi, sono bidoncini questi, non sono apparecchi. Io li chiamo sempre bidoncini, vanno bene in macchina, mi giusto, ma in casa, non so. Ok, vediamo Gianni se ha risolto, vai Gianni. Yeah. quindi non c'è molto tempo di stare a dedicarmi alla radio. C'è altre cose da fare, molto più importante della radio, quindi la sera mi stavo spaccolando, se ti piace adesso sono andato a fare la chiacchierata, tutto lì. Tutto a posto comunque, perché? Tutto a posto, fra, caspettina, tutto a posto, va. Tutto bene, lavoro a casa, casa lavoro, va. Purtroppo, dove va? Io di solito torno sempre alle 9, alle 10, anzi oggi, che sono rientrato un po' prima, sono arrivato alle 8, si può dire. Fatto la luce, adesso faccio la spazzolata, c'è una radio, vedo se c'è qualcuno. Così la trovo, tutto qua. Andar bene a vela, okay, e poi mi risolto con gli apparecchi. Tutto a posto, come ti arriva con le coordinate, fra? 9.25 sta arrivando, radio 5, buona, pulita, tranquilla. Positivo, positivo, oh, anche la tua non scherza, anche la tua non scherza, no? Poi vabbè, devi considerare che questa radio erano almeno 3 mesi in fermo, se non di più, capito? Quindi l'ho accesa giusto per farla funzionare un po', altrimenti si rovina. Tutto lì. Non c'è problema. K, va bene. Ciao di nuovo, ciao tutta la notte. Non lo so, probabilmente sta attaccando qualche cosa, devo capire che cos'è. Tanto un attimino di tempo che lo ha. Ha fatto un casino niente. Non riesco a capirlo manco io. Vabbè, controlla, fratello, se c'è qualche cosa. Guarda di popolo! Sì, ciao, e la mia mano attaccata, Gianni. Sono controllo a vedere cosa è successo. Oh, una cosa anomala. Non lo so. Cazzo, guarda, arrivi più forte di me, arrivi il pacchetto. Thank you. facendo il culo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi un po', 1, 2, 3. Ah, va bene. Perché deve esserci qualche cosa, era fatta un po' di tempo che non aveva pure ragione, dai. Guarda adesso 1, 2, 3, 4. Stiamo andando, c'è andato. Sai che prova a cambiare la batteria? Come sto scendo adesso? adesso? Ma tutto nasino, sì, io ti ascolto un bel male già adesso. Nasino? E non si capisce niente la modulazione, capito? Sono bassi, capito? Già piani la Francia era all'ordine del giorno, come ti arrivi alla Ricci, arrivi alla Francia, chissà proprio Francia arrivare bene, una volta solo ci ho parlato ma era bassa. No, già va bene, già va bene. Va bene, dai, c'è lì che io faccio un po' di carica batteria, dai. Ah, più dopo se coincide. Ciao Antonio Bombo. Aspetta che vado a aprire la porta, Antonio. Ah, vai a aprire la porta. Ciao Marche, dai, ci risentiamo. Ah, fa tu, a più dopo se coincide, dai. Ciao, salutami guarda familiare. Ciao Marche. Ciao, ciao Antonio. Thank you. apparecchio e anche col microfono normale c'è bene, perché basta mettere i elettrici a posto. Comunque dentro la scatola, poi a parte la scatola ne avrò un'altra decina di microfoni, grazie. Non c'è problema, se non andrà più dove è là. È il filo di quelli a spiegamandocci, quello lì è troppo bello, come diciamo come estetica è bellissimo. Ha ha ha. giustamente, non si può. Lì è Ibea Santa Rambia. Si dovrebbe arrangiare lui, darne un mese a voi e in quel mese che lui ci siete voi prenderne un altro, almeno sostituirvi. Non è così, no, non è così che funziona. Io invece se ti domando una cosa del genere, 2-4 mesi, sempre a casa. E noi che glielo facciamo fare queste cose, perché se no non ne avrebbero fatta, e le facciamo fare lui. Non so che tante volte bisogna dare la luce anche lui, perché non c'è lavoro, per quello di solo. Purtroppo bisogna accontentarsi di quelle che si hanno, perché poi comincia il lavoro, tutto quanto, e a parte la testa e lavorare, purtroppo, e vivere la giornata. Per pazienza, non me ne importa niente, già battano e avanzano, dai. Lo so, Anto. Bastano, ma ci sarebbe tutto e sarebbe meglio. Purtroppo non si può, non si fa. Perché dove te ne va questa figlia? Lì vuoi andare? Adesso sono un po' che non esco fuori. Sono, da questo inverno. L'estate non sono andato a nessuna parte quest'anno, bisogna che mi gestisca un po' la questione del Ryanair per vedere se c'è qualche volo. Sono andato in Grecia con questi amici miei con 5 euro, cazzo. 5 euro di viaggio. Che affa, dove sei mai andato in Sirocco, no? No, così all'estero tanto, perché finché vado in Italia mi destreggio, ma all'estero la verità, se non parli la lingua, meglio con quei presidi è sempre meglio andare o con qualcuno che sa parlare la lingua oppure con qualche viaggio organizzato dove c'è la guida che parla le lingue. Bisogna andare con una persona un po' organizzata, ma già se si chiede già si fa lo stesso. E che domande? Di arabo, che tu vuoi vedere di arabo? Non c'è che possa comprendirlo. Vedi, Lucia è andata, quella di fronte, è andata in Tunisia. Si è messa su un cammello, quando si è bussato era il cammello, il cammello ha fatto che bisombe. Dopo dite che di colpo se ne è misurata, era inginocchiato, no, di colpo blu, si è alzata in alto, c'è una paura, mamma mia, e l'ha fatta salire, c'è cosa che vede meno di là, questa è una cosa allucinante. E poi mi ha portato le cingombe, si chiamano le palle pals del cammello, cioè le palle del cammello, capito? E c'è il cammello disegnato con l'ambaradà e le palle evidenziate. Sono cingombe rotonde, si chiamano palle di cammello. Ha detto che ha fatto radiati in Chibia, ci ha fatto italiani, diciamo, di cadere risa di Chibia, un gruppo che erano, loro sono andati con un lì, un'amica e basta, hanno trovato un viaggio e sono partiti. Ha detto che praticamente c'era un gruppo di turisti italiani e si sono uniti tutti a loro perché li faccio fare delle tritti. Prego. Oh, signor Giuseppe, come stiamo? Buonasera. buonasera Gianni e buonasera Antonio. Da qui mi sentite? Appa, che ti sentiamo. Bene. Ma perché? Da dove ci hai chiamato prima? Ma stavo caricando e mi stavo svolando al portatile. Però niente da fare, con quello non riuscivo a entrare. Vabbè, il portatile un po' così sempre. Io uno non ce l'ho più, l'ho venduto, l'altro ce l'ho ancora. Ma non li usi, boh, io non li uso mai, che sarete ne a fare? Se non prima li usavano perché facevi il coso, facevi praticamente... un attimino solo, che ci abbiamo il telefono. E tanto a tu, che cosa si conta in giro? Che si conta? Tu, per Giuseppe, senti di mappare i corsi. Ma cosa si vuol fare? La vita nostra è così, mia Antonio. È così, mannaggia. Ma il giorno che faccio questo benedetto sei a Superenalotto, guai. Oh, bisogna un sacco di miliardi, mi mara di zione. Adesso stanotte mi devo addormentare col coso di azzeccare i numeri. Mi sa che non riesco a azzeccare i numeri giusti, Antonio. Cazzo, ughisi di là. Cosa che non ti fanno gli gambane? Guarda, se faccio sì a Superenalotto compro la bicicletta nuova a Veronica. Altre due biciclette a ricompare. A me piace tutte le soddisfazioni di questo mondo, messi poi ciò di dire. Guarda, la prima cosa che faccio è me ne vado subito da qua. Sì, no. Guarda che... Se ci ero riuscito pure io, me ne ero andata a 200 all'ora, là, in occhi. Metto una bomba dove sto lavorando e me ne vado. Chiappa. Se ci avessi pensato a metterne una e poi anche dove dico io. E poi c'è un che d'accordo. Ah, per quello non c'è problema, con tutti quei soldi lì se ne possono comprare quante di voi. Era solo per vedere se rimanevano molti vetri interi, mi tutto lì. A poi mi fa la grazia, ne vuole una ghetta, una bisetto. Siamo a casa manna, divisa e via. Appa, un'antenna alta 50 metri e il gioco è fatto. Si può fare, io sono fissato con i cosimi, con questi cosi maturi. L'antenna non è che mi interessi più di tanto, no? A me mi piacciono queste cose. Lo so, ma con i soldi già si può prendere tutto, altro che si può togliere mille e uno svizzero. Queste cose mi piacciono, l'antenna può essere a burro di mezzo, ma... Quando dico di le barriate, chi sa la ragione? Voglio vedere io. Tu la prendi 50 metri, io 10. Ma come qui c'è la portata? La portata si tremoreggia tutto. Così sarebbe voluto. Un bel lineare di qualche 6-7 mila fa, tanto il gioco è fatto. Mamma, già passano anche 2000. Sì, ma fallo qua, fallo tremore a me, al manco 20 miri, Anto, così ti sentono anche sulla luna. Eia, così cade chi mi riceve, come schiaccio la portante gli esplode l'antenna. No. Senti come rulla. Andatevi, cosaretemi. Quindi Giuseppe, il microfono come lo senti? Questo? Questo mio. Ma questo stai modulando adesso? K. È perfetto. Ehi, questo qui è quello che gli ho cambiato, il PDD, il coso in plastica, e gli ho cambiato la carcassa di dietro. Sì, va benissimo, bello, chiaro e niente da dire, è perfetto. Sì, perché all'inizio qualche difetto ce l'ha fatto, nel senso che stavo parlando con Antonio e praticamente ha sparato l'eco a mille, cioè si sentiva un bel botto a ripetizione, era proprio a raffica. Ed era praticamente una saldatura che avevo fatto appena appena più grossa delle altre e toccava come lo chiudevo. E ma adesso gli ho messo un po' di vulcanizzante, c'erano 10 b. Va bene. Adesso ci prendiamo la specializzazione sui microfoni e il gioco è fatto. E su che andiamo? Beh, vabbè, ne avevo fatto in vecchiaia di questi lavori, ne avevo fatto 80. Diciamo che poi Giuseppe la vista era quello che era, e non potevo più farlo, nel senso che se andavi a guardare non riuscivi a centrare dove dovevi saldare, sembrava che se sì, c'era nel posto giusto e poi magari era spostato. Ma con gli occhiali piano, che poi ci sarebbe voluta quella bella lente di ingrandimento, il microfono bello appoggiato al tavolo, messo lì sotto. Io già ce l'ho, ma non c'ho quella che c'ha Pierpaolo col cavalletto, c'ho quella manuale. Anch'io ne ho una manuale di lente di ingrandimento, però devo riuscire a prendermi anche l'altra, quella col cavallettino, quella che abbiamo visto il giorno. Io oramai la lampada, mi sono fatto la lampada per illuminare sopra, si gira, si fa, erano due lampade rotte, anche quello lì ho fatto una che funziona. Guarda, comunque io rimango sempre del parere che per fare queste cose qui, interventi su apparecchi, microfoni, tutte queste cose qui, ci vuole solo tempo e la persona deve essere anche un po' riposata in maniera che abbia la mente fresca. Ma io lo sai cose, non c'ho molta pazienza, Giuseppe, in queste cose, mi nervosisco, se vedo che la cosa mi va bene, ok, se vedo che mi poco a poco mi comincia a rompere i cattoli, mamma mia, divento nervoso, non capisco più nulla. Io invece devo essere tranquillo, riposato, e se ad esempio è cosa che mi metto a fare dopo che sto da lavoro, so che non la devo manco toccare, perché tanto so che viene fuori una porcheria. Giuseppe, ma non hai sentito che si è buttato qualcuno dal palco? Positivo, è tutta la mattina che se ne parla, però non sono riuscito a capire chi è. Vuol dire che quello era arrivato. Una ragazza era la mattina, poi non so se sia la stessa. No, io l'ho sentito anche stamattina perché mi hanno fatto una domanda e ho detto sì, ho sentito, ma non so chi è, non so chi sia. E non so neanche se ne abbiano messo in giornale. Ma non penso, Giuseppe, comunque sono passato in macchina lì e ho visto che tutta la gente guardava verso giù. Tanto inutile che guardano verso giù se lui non c'è più lì. via. E il caldo a volte è la disperazione. Il caldo fa sì che la gente che ha un po' di esaurimento ne ritorni. È una cosa micidiale per chi soffre di esaurimento e queste cose qua. E tu hai sentito niente, Antoni, questa storia qua? Ho sentita così vagamente, ho sentita così dalla questa notizia, ma deve essere successo di notte quella cosa lì, se non mi sbaglio, vero? Ovvero un uomo. Non si sa. Ma eppure voglio vedere gli internet sul sito della Nuova Sardegna e vedere un pochino cosa c'è. Ma solitamente quando si suicidano così non emettono, non divulgano la notizia. Dici? Ma l'ultima volta c'era, avevo preso la Nuova Sardegna e l'avevano, c'era un coso, un articolo. KK. Ma solitamente prima non li divulgavano queste cose qua. Allora, datemi 2 minuti, sta arrivando subito. No. Cosa è successo di notte, per esempio? Ma di mattina penso che l'abbiano trovata. La femmina, uomo o donna? Non lo so. Io parlo di Salma, pur non lo so se è maschio o femmina. Sto parlando di Salma. Questa femminile, come dire, la Salma l'hanno trovata stamattina, mi pare. Perché la mattina c'è altri che guardavano giù. Ma che appare dove va? E altro, non si sa la disperazione cosa fa fare ciò che vuole. Io lo so, ma... Boh, non è che si ricorda ne va a bene, ma va a fare. Si va sempre avanti, certo se sono cose gravi, non lo sa la testa come ragiona anche. E se non si va infettando nei barri d'uso, non le esci piacini da ricosi, io. Non è così, no. Per carità, c'è gente che magari non esce dai pagamenti, da cose, non è disperato, non sa come fare, magari per il travaglio, quanti c'è? Uno diventa scemo. Già lo so, ma bisogna ragionarci su però. È solo che ragionare non ti fa risolvere i problemi, anzi, se tu ci ragioni ancora peggio, a chi vive delle situazioni in cui sei ed è peggio. Che fai uno da cavolo deve fare? Io piuttosto che buttarmi dallo monte, il rosetto preferisco, cioè uscendo di testa preferisco fare altro. Stamattina si parlava di un uomo, cioè di sesso maschile. Dice, tu ricordi quello che ti ho detto sabato? Te lo ricordi cosa ti ho detto quando eravamo al quadrato sabato? Ci sto pensando, ma... A proposito, dico la cosa lì. Sto facendo di fare memoria. Cercando di far memoria. E vabbè, già te lo ricordo io, dai. Te lo ricordo un altro momento. E comunque magari ha preso lo spunto da quello oppure la solita persona. Ma Pierre e poi Paolo. Ma stamattina a me hanno detto sesso maschile, infatti ho detto quel tipo che si è buttato dal ponte. Ehi, buonasera, buonasera, ma io ho sentito uno poco fa che ha detto, ma cos'è una femmina, uomo o donna? Ehi, vabbè, Antonio non si è accorto che ha ripetuto, questo pizzino, come dicono a sorso, questo pizzino femmino, so. Ma poi cos'è una femmina, uomo o donna? Un uomo o donna era. Va bene, ciao, buonanotte Giuseppe, buonanotte Gianni, ciao, ciao. Ciao, ciao Pierpa. Ciao Pierpa, buonanotte e hasta la vista. Visto che non mi ha salutato lui, lo saluto io. Ciao, ciao, ciao. Se non mi dai un tempo, ti ho salutato. Poi io ti ho detto ciao. Ciao, ciao, vabbù, ciao, ciao, buonanotte, ciao. Buonanotte. La benedizione se ne è andata a partire e poi pure andare, così è. Ma cosa è la femmina, uomo o donna? La mattina è la donna, la sera non lo so. Ma queste notizie così frammentarie che avete. Allora, il giornale riportava che si trattava di uomo, 54 anni, MR le iniziali, buttandosi dalla sera prima ritrovando la domattina, termine. Cavolo, buttatela dalla notte, quindi. Cappa, il giornale dice così, buttato la sera prima e ritrovato il domani mattina. C'è spoveraccio però. Tante volte la disperazione, magari per il travaglio, oggi ne è venuto uno a casa prendendo pentole e mi ha detto, e cosa vuoi che facessi, che mettessi a braccia a conserva, sto prendendo pentole, se me la puoi comprare una, c'ho tre figli, mutuo da pagare. A volte non sai manco se, io ho detto guarda, se vuoi ti do i soldi però non mi servono le pentole, ne ho da. No, non le ha voluti, non le ha voluti. No, comunque c'è un sacco di disperazione, ma veramente c'è tanta gente disperata in giro. E se è vero quello che ho sentito, qui a Sassari ancora la bomba deve scoppiare. Ma guarda, io ho sentito che c'è la stragrande maggioranza della gente che ha acquistato casa qui a Sassari, che è parecchio indietro con le rate del mutuo e non si sa come va a finire poi. Ma è quello un po' grave. Io la verità, almeno da quello me ne sono uscito, grazie a Dio. È già tanti anni che l'ho pagato, ma già ho sofferto prima quando lo stavo pagando, sempre con la paura. Sono cose, per forza di cosa ci devi pensare, cosa che ci devi pensare ogni giorno quello. Ogni giorno, come facciamo noi giù, anche oggi abbiamo dato, te ne vai a casa, pensi all'indomani, l'indomani pensi se dopodomani ci sei ancora, e sono tutte quelle storie lì, se il lavoro tiene, e te ne frullano di cose in testa. Perché da un giorno all'altro viene qualcuno, ti fa concorrenza e ti demolisce. A me da cantare la mano, chissà, quel capannone di coso, di Autorica Vittores, mi sembra così possibile che abbia chiuso. Magari lì bisogna vedere anche cosa c'è sotto lì, già non è a chiudere, già fanno in fretta, perché guarda io posso dirti che posso capire quando vai diverse volte in un posto e vedi che effettivamente il locale è vuoto, pure sta girando poca gente, ma grazie a Dio lì sono al pensiero che dovevo andare a comprare un pezzo lì a quel negozio di autorità, mi veniva al freddo perché sapevi quando entravi ma non sapevi quando uscivi, quindi il giro ce l'avevo, ce l'ha. Scappagato. Ma mi dice che ha chiuso anche a Pronto Sarro, ce l'aveva anche a Pronto Sarro, a Nuoro. Poi io vedo il furgone di Autoricambi Torres che rifornisce nel rifornitore davanti a noi, all'Agip di Molinetto. Magari l'hanno venduto, chi lo sa, oppure lo stanno ancora usando loro. Speriamo bene, speriamo che si rimetta a posto anche lì. È un casino, eh. Io c'ho un amico che lavorava lì. Ma io a dire la verità, amici, non però vedevo che c'era un sacco di gente. Vedi gente che non aveva gana, amico, vedi gente che ti guardava dal basso all'alto, così, come per dire, ma cosa vuoi? Cioè, e vedi molti anche scocciati. Diciamo che prima Autoricambi Torres era Porto Torres, quindi io li conosco tanti anni, erano clienti nostri, eccetera, eccetera, quindi conosco bene sia lei, a lui, i figli, tutti quanti. Vuol dire che per il giro di lavoro che aveva, vuol dire che qualche puntino sulla I non è stato messo già, perché ti dico, è praticamente impossibile che un'attività così abbia chiuso. Poi, se sto sbagliando, Pierpa, tu mi puoi riprendere in qualcosa, ma penso di aver detto le cose giuste. No, c'è ragione, non penso che avesse crisi, però in questo momento non soffriva di crisi, certo. Infatti ha stupito che la sua chiusura, ma semplicemente perché io penso che lui voleva finire l'attività e come non penso che avesse crisi. Infatti, se avete notato, non ha parlato di crisi. Ma no, infatti non ho sentito che ha parlato di crisi, però è strano perché si è ampliato, prima era Porto Torres, non sai dove era. Era dove c'è adesso quello che vende le moto, in quel porticato che c'è in via Marlori. Era lì Busia. E vendeva già la Porto Torres, è stato un bel di anni lì, poi c'era anche Mamiri via Porto Torres, e adesso anche Mamiri ha aperto a Sassari pure. Ah già. E se avessi voluto chiudere l'attività in bellezza? Non lo so, ma uno che ha anche questa intenzione di chiudere non si mette a grattacapi a aprire, a fare cose in grande, poi l'ha aperto anche a Prato Sardo, a Nuoro, al centro commerciale di Nuoro, ne ha aperto un altro, ma non lo so, è sempre un inghippo, dai, loro lo sanno perché. Ma più che loro, forse anche i commercialisti lo sanno meglio di loro. Loro già non moriranno di fronte, chi c'è che sta male sono quelli che lavoravano tanti anni. Infatti, ma formare una cooperativa anche loro, con qualcosa, sì, soffri magari il primo periodo, però sai che stai soffrendo perché stai tirando su una cosa che poi un domani ti può dare da campare, mi hai capito? Però ho visto che non si è mosso niente. Per dire, i colleghi di mia moglie, quando ha fallito la ditta, si hanno preso con i soldi della liquidazione, si hanno comprato tutto e stanno ancora andando avanti. Adesso si stanno trasferendo, si sono trasferiti di via Sorso e stanno sempre andando avanti. È un'agenzia libraria, quindi vende sempre la maggior vendita c'era nel periodo scolastico, però vende sempre anche negli altri periodi, quando c'è tutto penne, libri, tutto quello che serve per la cartoleria, eccetera, eccetera. Lo so, ma hanno fatto bene, si hanno rimboccato le maniche, hanno investito quei due soldini che gli sono toccati di liquidazione e niente, bisogna prendere il coraggio non a due ma a quattro mani e niente, e tirare avanti. Cosa che mi ha stupito invece la storia di loro, perché per quanto grande poteva essere, per quanto cosa poteva essere, meno male qui ormai a Sassari magazzini sfitti ce ne sono, non dico di prenderlo grande come quello, puoi iniziare anche da un buco, ti organizzi, fai, cerchi di accatastarti un po' di roba, tanto per cominciare ad andare avanti, però non si è sentito niente. C'è chi non se la sente pure di rischiare, capito? Io ho trovato uno dei miei colleghi di mia moglie, i colleghi di mia moglie mi ha detto già, io non ti posso dire male, sto ricavando lo stipendio che prendevo prima, né più né meno. Lo so, però lo stipendio a casa lo stai portando. Quello sì, però l'attività è loro adesso. Trattasse questo e quell'altro, e poi mi ha detto che hanno fatto un grosso sbaglio, che hanno preso un magazzino nuovo che c'ha una discesa, e se col camion pieno di libri con tre pedali non ce la fa salire, pattina. E gli ho detto fargli delle strisce di lungo, fargli qualche cosa, cerca di io li fai un gradino appena più alto, di modo che ha meno salita, qualche cosa si può fare. In qualche maniera lo devono risolvere quel problema lì, anche se era meglio che, perché una volta che lo stai comprando, un magazzino, una qualsiasi cosa, devi andarci con gli occhi aperti, sai benissimo il mestiere che fai, sai benissimo che cosa ti occorre, lo spazio, come deve essere fatto, insomma, che l'abbiano preso con quella discesa vuol dire sono stati anche un pochino polli. Io non gli ho detto nulla, però tu immaginati l'agenzia di Brera dove c'è un tiribile accatastato, il cazzo se piove con una discesa così dalla gara del tuo magazzino. Ne aveva fatto già inviare San Francesco alla Ino quando c'era mia sorella che ne aveva allagato tutto. Ma figurati. Beh, signori belli, allora sapete che Giuseppe vi dà la buonanotte, la benedizione, buon attrabacco per domani a tutti, ciao Gianni, Pierpaolo, Antonio, eventuali ascoltoni con le orecchie lunghe di Porcellino, buonanotte a tutti e ci risentiamo domani, io adesso vado, mi faccio una bella doccia e mi ci strampo tutto quanto sul letto. Ehi, ciao Giuseppe, ti auguro buonanotte, buon trabacco per domani, avanti a te. Buonanotte Giuseppe, dai, ti auguro buonanotte e buon trabacco per domani. Aspetta Giuseppe, ti voglio dire una cosa. Avanti Pierpa. Ti voglio fare un esempio che sta emergendo piano piano adesso, a distanza di 10 anni dalla chiusura. Ti voglio dire quello della quarta, 10 anni fa. Hanno fatto con la specifica ho raggiunto il marchio e praticamente la fabbrica avrebbe l'altra ditta della Corea, però la tattica lì c'è tutto un camuffo, perché prima dicevano che tutto solo il marchio, il resto non l'avrebbe assorbito e niente, né i lavoratori, niente, perché era la vendita solo il marchio, per non fargli, hanno messo in liquidazione tutti gli operai che lavoravano, tra i quali c'era anche mio fratello. La fabbrica è stata ferma per 7-8 anni, 2 anni fa, sapete che hanno già iniziato lì, in quella fabbrica nuova, la Coop, lì a Predanita, hanno già iniziato a rifare una produzione, per esempio in sordina, piano piano, a riprendere a fare gli yogurt, piano piano stanno facendo anche il latte nuovo lì, piano piano, c'è sempre dietro queste cose. Quella Coop aveva finito, aveva chiuso con un attivo di 600 miliardi di lire. Chissà, era abbiata per un po' la testa di chi lavorava lì, perché sarei magnato. L'ideale è una testa maniera. Hanno riaperto in un'altra per prendere per il culo tutti. Così sono questi capitalisti, tipo come quello così. Ha visto che aveva grossi capitali, ha preferito chiudere così e vedere dopo cos'altro fa. Ti servirà soltanto per specificare cosa fanno questi animali e come mettere in condizione la gente. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ciao Pierpa, ci sentiamo, buonanotte anche a te. E ti do perfettamente ragione di quello che hai detto adesso. Perfettamente ragione, perché con la gente lì non guarda in faccia a nessuno. Ok, ciao, buonanotte, dai. Buon proseguimento di serata. Ok, altrettanto a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao Giuseppe. Avanti, Pierino. Hai capito dove sono quelli, quelli la studiano, si portano via il capitale. Una volta che hanno capitale così grossi, dice alla fine che cavolo non fa fare, li metto in liquidazione oppure dichiaro semplicemente fallimento. Con le mie ci riescono a pagare quello che c'è da pagare, altrimenti si ammazza. Intanto loro si hanno portato via il capitale. Allora fa una ditta, per esempio, come era la Coabra, che addirittura aveva raggiunto anche il mercato estero. Aveva fatto una fabbrica nuova da soli 2 anni. Come ti va a fallire con un capitale 600 miliardi di lire di allora? Eppure l'hanno fatto. Fanno così, a volte dichiarano fallimento e poi la farò con un altro nome, come hanno fatto anche ditte di carta igienica, roba così, che conosco io, capito? E lo metto sotto un altro nome e tanto cazzo, si fanno ridinare. Beh, certamente, c'è la cosa che fanno è iniziata la riproduzione dello yogurt. Se tu adesso vai dentro quella fabbrica, c'è già anche la riproduzione del latte di uovo. E piano piano il sordino sta sempre andando. E sta sempre andando con i capitali che avevano loro, che sono impugnati, si hanno portato via per mandare via, perché prima c'era, erano tutti i lavoratori fisici, stagionali, c'era un poco. Adesso sono a contratto a termine, a 3 mesi. E mica ne freghi più tu a loro. Tu adesso se entri di lì, anche alla moneta d'accordo, e sono tutti contratti a 3 mesi rinnovabili. Qua che fanno? Ti rinnovano il contratto, la maniera che cambia neppure una volta in corso, poi una volta in questo sicuro è buona. Invece prima in quella cooperativa della Coabra, 30 erano tutti a 30, tutti a contratto fisso. E allora hanno fatto un giro di conti, dice, beh, se ne rimane, ne rimane, se no è cosa è rimasto? Niente, perché il capitale che avevano nell'attivo si era rimbucciato, hai capito? E c'era anche quelli che trasportavano il latte, c'era Altea, che aveva la cooperativa interna, c'aveva i mezzi, gli uomini che facevano manovalanza, che caricavano e scaricavano, era proprio una cooperativa interna che lavorava lì anche. Ma infatti, però, in una maniera o l'altra, aiutate dalle leggi, farò che al solito la moda italiana, aiutate da tutto quello, sono riuscito a chiudere un'impresa che voleva ancora, e infatti si vede, è attiva adesso al 100%, e il sordino è questa, è zitta zitta, c'è la produzione, una fabbrichetta nuova, e tutto quanto, oppure ci sono 30 persone che sono state mandate a casa così all'improvviso in giro di 30 giorni. E poi la regione li aiuta, capito? Quando devono riaprire un'altra attività sotto un altro nome li aiuta, è normale, no? Loro si beccano i soldi anche della regione. Ma tu immaginati che questa fregatura risulterebbe sotto il marchio dell'Arborea, però la produzione coopera, attenzione, producono coopera lì, È tutta una questione di dinari, c'è poco da fare. Situare io mi so solo il capitale della cooperativa e boh, dai, sono tutta comprata a 3 mesi, così non mi butti più di suo capitale, non ce ne sono più, finiti 3 mesi liquidato, se mi piace il nuovo locale, sono tipo una volta in questo, si vuole pure fuori. Beh, donosci, e loro li conviene così, perché ci sono dei contratti adesso che ti pagano anche, ti paga tutto l'Inps, capito? E il datore di lavoro non paga nulla, mette solo il lavoro e basta, tutto lì. E l'Inps per formarli li paga tutto. Quindi figurati se stanno dando modo di assumere gente facendo queste cose. Non è che anche lo Stato dovrebbe darci un taglio con questi contratti a termine, perché dice che così fanno girare la che dovevo essere come prima, come avevo prima, contratti e basta, contratti di lavoro, che è fissi, che la gente lavora fisso, se non lavora fissa non conta più niente nessuno, il lavoro non va avanti. Adesso, appunto, con questi nuovi contratti che fanno, chi prende? E loro non gli dà modo di prendere gente fissa per farli, come viene? Se li pagano l'80%, se li pagano totalmente il contratto, se li fanno fare, è praticamente come se si facessero uno stage, capito? Li prendono per 3 mesi, sono pagati direttamente da lì, non è coso, da lì, cioè, tu non devi pagare niente, quindi a loro chi glielo fa fare a prendere gente a pagarla, pagandola? Già è così, ma poi mi fanno la carriera, no? Dice ti faccio il contratto per 3 mesi, ma su questo lavoro l'ha già fatto. Diciamo questo non mi fa, no, noi stiamo cercando gente esperta. Cazzo, ma si trova a fargli dare questo qua, 3 mesi chi sa, 3 mesi che dà, dopo arriverà a finire. Anche quelli che avevano già occupato un posto del genere, arrivano quelli che non hanno mai occupato un posto del genere, casa quelli che vogliono dare la possibilità, non glielo insegni quel lavoro, e allora cosa vuoi, voi in America, allora a un certo punto bisogna che lo Stato intervenga anche su queste cose, dici tu che tipo di lavoro hai su questa fabbrica, dice io ho questo tipo di lavoro, allora questo lavoro caso però può essere svolto, la persona è fisso, tu per cosa ne vuoi a 3 mesi, se queste formiche no, allora tu maledetto ti castigo, perché bisogna fare una valutazione quando si fanno i contratti, se sono dei contratti che possono essere sviluppati da personale a termine, cioè che ti servono proprio stagionalmente, perché dopo un certo numero di cose non produce più quel tanto lì, allora sì, se no se invece tu hai una produzione fissa che è, può essere valutato lavoro fisso, chi deve essere lavoro fisso, perché in Italia non c'è più un posto fisso. Lo so, purtroppo anche chi è fisso per là ha sempre la paura, c'è gente che c'è 30, 35 anni più che viene licenziata, capito? E quello che c'è, non è che sia più, non c'è più nulla di fisso adesso. Ma appunto sto dicendo quello perché aiutato le leggi bastarde italiane, invece le leggi dovrebbero fare diverso lo Stato, perché appunto se non c'è il lavoro fisso già, il lavoro fisso le banche non ti danno mutui, non ti danno niente per comprarti una casa, non ti, e se tu ti hanno lavorato 3 mesi non ti prendono più neanche a rate una macchina, non acquisti macchine, non acquisti questo, non acquisti quell'altro. Col precariato non si va avanti, allora si deve cercare di andare avanti con il lavoro fisso, è inutile che mi dicano che deve girare, ma deve girare, andare a lavorare 3 mesi a 3 mesi, la fabbrica delle macchine non lavora più perché non ti danno più una macchina neanche, se tu hai un contratto a termine di 3 mesi e tu vai a quest'altra macchina e ti dicono cosa vuoi, aria, non ti danno, perché non hai possibilità di pagarla, andare a quest'altra casa, se non vai, così giusti, non te ne danno, perché dice quello tu lavori per 3 mesi con un mutuo, non te ne danno. E come andiamo a finire così? Non ti danno mutuo, non ti danno casa, non ti danno lavoro, non ti danno. Non c'è niente. Se il lavoro è fatto soltanto di precariato, perché ormai è tutto preparato precariato, ti hanno anche altre cose vanno avanti, chi che ti mette in mano una cosa, anche una moto, che ti vuole acquistare una moto, non te la danno, non te ne danno, ti vai lì a pagare la rientria, dici no. E quindi non può acquistare niente, non può avanti neanche la fabbrica delle moto, è tutto lì il discorso. Ho tutta una cartella che fa, è normale, cioè non acquisti in casa, non lavorano gli idraulici, non lavora il muratore, non lavora il capocantiere, non lavora l'elettricista, insomma sono tutte cose collegate. Infatti è quello che bisogna far finire, il precariato. Prima c'era, perché non c'era? C'era un lavoro, però veniva valutato in base a quello che dovevano fare. Però una fabbrica che ha una produzione, che non può pigliare a casa, c'è da 3 mesi. Una fabbrica che ha un certo numero di cose da produrre, deve essere valutato, veramente, la persona dice no, io che tu, con un precariato non fai un cazzo, ci vogliono le persone fisse qua. Ecco che cosa ci vogliono le leggi così. Invece, siccome i signori padroni ci godono, gli ha fatto la guerra civile per Pacqua. Quando è nata mia sorella Furi in Tunisia per l'aumento del pane, diceva da questo casino era un albergo, gli ha detto non uscite dall'albergo, gli ha detto meglio che non uscite, ma perché non gli dicevano nulla? Ci sono facendo la roba con i clienti, quella di Giappone, coso, fascia su vetrine di negozi e coso, perché? Perché l'ha aumentato il pane. Lo so, ogni paese ha le sue cose, però faccio questo in Italia, oltre che c'è tutto ormai, c'è tutto, ma è aiutato dalle leggi di questi animali che sono lì, che sono rotte, che poi sono tutti lì, che hanno fatto leggi, ma te sì, che leggi così, sono tutti capitalisti, non ti mangiano meglio, insomma. Naturalmente fanno le leggi a loro favore, non le fanno certo a favore degli operai. Ma comunque ora che qualcosa si smuova, io penso anche che in uno stato così che se la giochino le sempre 3-4 persone che stanno circolando lì in quelle aule di Montecitorio da un po' di anni, e ora che io penso che innanzitutto deve essere così. Un governo che non ha fatto in precedenza niente e che non è stato buono, fuori tutti, fuori che non devono neanche pensare a sentare lì altra gente nuova, quando non servono più quelli lo stesso, fuori altri giovani, altre idee, altre, se non servono fuori direttamente è inutile che 5 anni quello e altri 5 anni rientra quello e altri 5 anni dopo rientrerà quello. Non serve a niente, chi sa niente, bisogna arrivare da fuori dalle palle definitivamente, che non l'avrei fatta fare una cosa, fuori, ma fuori veramente anche dalla politica, a casa. Non l'hai visto quando c'erano le brigate rosse cosa facevano? Quando ne andava uno lo eliminava. Lasciamo perdere il discorso, che chi siamo i mattesi delle brigate rosse, che chi rivolge. Dico, non è una cosa giusta, però diciamo che temevano qualche cosa e non continuavano a fare le cose che facevano prima. Adesso invece torna solo all'attacco. Oh yeah. Vabbè, sarebbe un discorso molto, non so, molte volte prende anche in cazzo quando vedo queste cose, ma che cazzo di niente, per esempio, vedi, diciamo pure se è un animale quello che adesso c'è tutto, vuol dire dopo intenderci da che ha ceduto la corda, ha ceduto, si è voluto ritirare le pensioni, è rimasto qualche cosa, sta facendo ancora qualche cosa, però diciamo che da una certa parte ha ceduto le cose, ha ceduto il personale e tutto quanto. Diciamo da una parte quello lì era voluta chiudere anche un po' in bellezza per non mettere un sacco di gente sulla strada, anche se devo dire che la trentina li ha messi lo stesso, Anche un amico mio tra quei 30 lì, però poi l'hanno riassorbito, è la verità, l'hanno ripreso a fare l'autista. Vabbè, diciamo che quello lì in un certo modo non c'entra, perché quella è la cosa della società che mi ha fatto, dice no, a me tutto questo numero di personale non mi serve, ma me ne serve tanto e quindi che ci vuoi fare? Ma lo so, io lo sapevo, oddio, non lo sapevo, ma sapevo che nella contabilità, soprattutto perché c'erano dei grossi uffici, lui, nella contabilità e quelli che ci hanno ripreso di più negli uffici. Comunque prima era una garanzia entrare a lavorare da Montenegro, che cavolo che non entrava contento se entrava lì, era come avere un assegno in mano, invece poi ha girato e quando loro quasi si stancano, prendono, chiudono tutto, il malloppo ce l'hanno, e gli altri che lavorano mensilmente e guadagnano lo stipendio mensile si rapinano in luci. Purtroppo è così, purtroppo se non cambiano le leggi, non cambiano le varie tra i titoli, ma tutti si chiedono se ne fare, dicevo, tra i monti e io sono un po' documentato da quel giornale tanti giorni guardo il telegiornale, un giorno vedo che tirano la parte, un giorno torna indietro, no, ma quella lì la giustiamo. Vedi un po', non so se hai visto ieri, per lo sciopero che era stato proclamato per oggi, nei medici, prima dice una cosa, poi torna indietro, no, ma in effetti noi non la trentano, non è che la tocchiamo, non è che introduciamo il nuovo ticket, non è che tocchiamo i contratti dei medici. Noi vogliamo solo che non ci siano degli sprechi. Cazzo, togli alla regione, cazzo, non so quanti milioni di euro. Sì, stai togliendo ai reparti, non volevano lavorare, non volevano fare le cose, stai togliendo, non stai toccando loro. Stai toccando loro perché meno personale, meno infermieri, perché non possono permettersi di prendere un infermiere in più. Se tu togli alle regioni, se tu togli ai capitani del genere, che devono lavare, non è che pure per l'assunzione sono bisogno di anno, però vale, nessuno lavoro bisogno di anno, imbecille, solo che dice che un giorno dice una cosa, un giorno ritrae indietro, usa ma quello con la caccia di incendi. Tutti no, e a chi Berlusconi non fa di Roma stessi, ricava la tassa da una parte e la palla nell'altra. Sono tutti così per fare. Sono tutti uno peggio dell'altro, se la gira nei come TV o nei TV di ricerca. Ah beh, quella un'altra, quella per il culo, tutto comunque, tutto ICI, bisogna sapere che la parola ICI non serve più, però peccato che i comuni, lui dice sempre che sono i comuni che hanno introdotto la tassa sugli immobili, si chiama adesso, tassa sugli immobili, attenzione, l'ICI però non c'è più. Vabbè, ha chiamato un nome. La sostanza è quella sempre. Ma fatto la gente, ho trovato l'inganno, sempre così è stata. Purtroppo chi c'ha il potere, noi le diamo la possibilità di noi, per più di con noi. Perché in altri paesi certe cose magari non le permettono perché fanno rivoluzione, guerra civile, questo e quell'altro e ottengono quello che vogliono. Vabbè, già, però bisogna rendere merito che ha tolto ICI. Cosa vuoi fare? L'ICI l'ha tolto, una volta che l'ha tolta, gli italiani devono fare tutti soddisfatti, che non pagheranno più l'ICI. Però l'importante è che abbiano messo la tassa sui immobili. Bisogna dargli il merito assai, bastardo, Vabbè, ma lì ci si paga sulla seconda casa sempre, sta tolta sulla prima, ma se tu hai due case la paghi. Ma com'è che l'hai compresa, amica? Il fatto è che qualcuno si ritrova una mano avanti e l'altra dietro, perché se tu hai la seconda casa ti continuerai a pagare l'ICI, no? Se hai due case, nell'altra ti paghi la tassa sull'immobile. Mentre la studia. Povari noi che dovremmo sacrificare per andare avanti. E tante volte che faccio dei sacrifici, vedi, mi viene una stangata così, per il lavoro e cose, cosa fai? Cosa fai? Nulla. Cosa vuoi fare? Non ho... Non so più neanche che cosa risponderti. Adesso questo che è venuto oggi mi ha aperto, la porta e mi ha detto buongiorno, mi chiamo Marco per, dice, per l'educazione mi presento con tutti, sto vendendo queste pentole perché lavoravo alla zona industriale come elettricista. E adesso purtroppo mi hanno sbattuto fuori, ho cercato un posto come elettricista visto che io lo so fare anche industriale, però ancora non ho trovato niente, quindi cosa dovevo fare? Piegarmi le maniche più che non potevo stare a braccia con sé, se sto vendendo queste pentole, se mi vuole aiutare almeno a comprarmene una perché ho tre figli e il mutuo da pagare. Perché? un po' non mi stava piuttosto sempre, però penso, se questo ne abbiamo anche, ci aveva detto la mattina amici, mia moglie le fa con i punti, le compra, ne fa, è pieno il coso di pentole, di palette. Ho detto, ascolta, allora, se vuoi ti do qualche cosa, no, non siamo a questo livello, noi vendiamo, non prendiamo subito così. Ho detto, ma a me non mi serve, dice, no, se vuoi gli do la pentola, ma gli ho detto, guarda, non mi serve, te li do, i soldi ti do 5 euro, qualche cosa, quello che c'ho, però non mi serve la pentola, non ne ho voluto. E quindi? No, se n'è andato, non ne ha voluto. Purtroppo succede anche questo. Chiama per arrivare delle lacrime, ma lo sai, mi stava facendo male. Perché a pensare, se è la verità quello che ha detto, perché molti più sbagliano, non sai come, non ci giostrano per vendere. Ma mi sembrava abbastanza sincero come persona. Se addirittura non ho avuto i 5 euro per niente, vuol dire che era questo. E a me, capito, spendere 20, 30 euro non potevo farlo e non mi interessava farlo. E Marco che mi diceva, papà, aiutalo, papà, prendi le decaio, Marco, smetti. Vabbè, forse sì, zitto, zitto. Vabbè, già io ti devo lasciare, là, che devo andare a fare una cosa e se lo faccio tardi dopo. Gatto, va bene, ciao ciao, per la licenza, ma avanti anche tu. Ciao ciao, buonanotte. Va, io già ci sono, va. Stanotte non esce. Sono qua. Ma no, non esce, dice. No, non mi ha giurato. Sì, costante nelle cose. Ah, no, non ho voglia già. No, stasera no. Riuscire a fare un poco di fresco, ma giocare. Ma comunque il microfono sta funzionando bene, come hai visto. Ma adesso il microfono sta funzionando benissimo. Andà bene, andà, metti voci. E poi c'è un altro di riserva, volendo. Mi sono detto, ne avevo due, uno che mi va a portare Tomas. Te l'avevo chiesto, lui me l'ha portato, poi me l'ha preso anche Giuseppe, uno, e quindi uno me lo tratti in macchina, e l'altro me lo uso a casa. Ma ce li hai nuovi? E allora, due nuovi sono, i Proxel, di quelli senza essere amplificati, normali. Che moia. Secondo le apparecchie ancora, io l'ho provato sul video e andava male, lo sai, mi avevi detto che era brutto, che era tutto quanto metallico, tu l'avevo provato con te, mentre non mi piace già, ti fai tuni troppo acuti forse, erano i tuni acuti facevi. Non mi hai chiesto proprio niente, ma quando è normale l'ho provato. Già te l'ho chiesto, l'ho provato, ovviamente lui, io me lo ricordo bene. No, col 48 l'altro, capito, quello modificato. No, io non ho già detto con le cose, a me il microfono andava bene, bruciava e basta, fischiava perché c'era il mic troppo alto. No, a parte quello lì, però ti metto che era meglio l'altro, perché quello lì c'era troppi acuti. È un pochettino di più di acuti, già ce li aveva, però il microfono andava bene. Si chiama perché spingeva più dell'altro, io ti ho fatto questo discorso, ti ho fatto, ma di chi non esci bene, e cose non te ne ha giudizio. Io ti ho detto solo che fischiava perché era superiore la modulazione, capito? No, infatti tu non mi hai detto che non esciare, mi hai detto l'altro c'ha più toni bassi, questo qui c'ha più acuti, mi hai detto, adesso che me lo ricordo. E in più avevo quel problema che se tu mettevi tutto il macchinino al massimo fischiava. forse perché era troppo potente. E invece qua va bene, se a quanto pare i turni sono abbastanza buoni. Sì, stavo detto io. L'ho detto. Cioè l'accessibilità non è la stessa, hai capito? Perché lì metà manetta, perché siccome esce più basso, cosa succede? Tu metà manetta ti senti anche tu, ma siccome praticamente c'è un discorso da fare. E te faccio vedere che se, c'è anche la colonnina, c'è gli ombri diversi, quella colonnina che stai utilizzando tu. E non ti dà la stessa sensibilità, se io ti do la mia, tu attacchi col microfono, attacchi la cosa e ti senti tranquillamente. E perché ha più sensibilità, quella lì un po' ha una tonalità diversa, tutto qua, e c'è anche da fare col discorso. Oh, ma mi sento anche quella lì, io anche quella mi sento, non fortissimo, ma mi sento. Ma tu prova chissà che va per mono e a vedere come ti intende, c'è un battuto. Lo so, quello del computer, so. No, è proprio di radio, paracchino, Trento per ne una di una colonnina buona di paracchino brutto. Cambia. Io c'è originale, non è che è tutta la roba del baracchino originale, non è che sia roba diversa. La colonnina è quella sua. No, cioè quella colonnina esterna. Questa non è originale, no? No, quella lì no, già lo sai che non è originale, si vede. Quello è per ascoltare esternamente, ma dico nel baracchino, all'interno del baracchino c'è il originale. Sì, magari se tu ne attacchi un coso ti intendi più forte. Tu attacchi la colonnina, ti senti più forte nel baracchino. Però non ti senti forte quanto la colonnina, quella esterna, quella che ci vorrebbe veramente. Guarda, un giorno ti posso sentire la differenza, però che mi dirai, c'è ragione, hai capito? Hanno una tonalità diversa, è per quello che no, con quella che prendono e con quella che abbiamo noi è diversa la situazione, ma ti trovo tutti in dita, però che mi dà ragione. Comunque io quella lì sento abbastanza bene, non è che sia, non è come quella piccola Midland che abbiamo presentato, quella si sente molto bassa, quella che giù io della Inter si sente bene, non è, diciamo, non sarà stereofonica, ma cioè, si sente bene. Che non lo so che cavolo è, che tutti quanti sono un po' più strane so queste cose. Sì, a volte magari vedi quella che magari è una casa migliore, rende di più, cosa vuoi ti dica, però non sai come attaccarla quella lì, è un casino. Comunque con la sopra adesivo quella lì attacca bene, non si muove più da dire a borsa. Sì, no, già, visto c'è una fesseria. Io l'ho comprato l'arma, non c'è dove. Da brico quello di via Valdetta, attacca che cosa amara. Che te la ricordi con la lama del mio ragazzo per quello che si premeva e si accendeva, che me l'ho messo nel tuo scosto. Quella lì io l'ho attaccata con quel biadesivo, prima si staccava, se non si è più staccata in vita sua, da quando ho messo quel biadesivo. Sì, e anche deve rimanere indipendente, perché è nella parete, non è che sia in un punto dove abbia un basamento tranquillo, è in alto, quindi cioè, si potrebbe staccare a momentaneo, che pure non si stacca da più, mai più, ma attacca, è micidiale, allora quel biadesivo. Schiaffo, vuol dire che è buono, è comprato un bricocifer. Trico quello che c'è via Valdetta. Bricocifer, ma si chiama. Comunque. sì, l'ho preso lì, ma ho detto, guarda, questo qua è buonissimo, prendi questo che non si sa capire nulla. L'ho provato, non mi sento, me ne caggio niente, non si vuole aprire il caffè, è un casino. Stasera che lo stavo mettendo, ieri sera, che lo stavo mettendo sopra i contatti di quel... come si chiama, del potenziometro dell'eco per non toccare, no? Invece non mi è bastato, uno ce l'ho fatto e l'altro era finito, lo devo ricomprare. Buon caro, insomma. Non ricordo quanto l'ho pagato, sinceramente, ma è un bel buono. Ti sto dicendo che la cosa che ha pagato... Te lo ricordo che ti ho detto che si erano fulminate le lampadine anche del cassone, eccetera, eccetera, eccetera. Ho detto, si staccava, non ritengo come scaldava, si staccava tutta la fila, un casino, allora cosa ho fatto? Ho preso quel biadesivo, l'ho messo sotto le lampade e sotto vediamo se si ricorre, non si sono più staccati. Sul canale eccetera eccetera, dice il canale e poi parlavi tranquillamente, c'è la pulizia. E ti credo che questo nuovo non l'ho preso, perché infatti non si tratta mai, al limite qualche volta lo dico casualmente, ma c'è il baracchino che va lì, quindi proviamo già qua con la banda laterale. C'è presente la stazione base tua? Su internet l'ho vista doppia, c'ha doppio strumento, doppi tasti, un cazzo enorme, bellissima, quella è bella aprire, quella è grande quanto, penso quasi il cassone mio, là. Ma allora è tipo un gas, c'è una roba del genere. Tanto è uguale identico al tuo, solo che lo dubbio. Cioè, immagina, è un po' però più grande. Oh, quello c'è il doppio strumento. Ehi, ha doppio strumento, c'ha più tasti, capito? È marcato presidente, però, Wow. Sì, quelli sono buoni avvenimenti. Però... oramai questi apparecchi qua, se non sei un amatore non li pigli più, che per gli apparecchi nuovi, ci sono gli amatori tipo Capri 2, ma comunque Io ce cioè, l'ho apparecchi nuovi, vecchi, eccetera, eccetera, li uso, mi fanno attacco, eccetera, eccetera, però alla fine preferisco più usare un'apparecchiatura nuova, mi è più comoda. Aspetta un attimino, Antonio. Dove era? Beh, per farla scaldare basta, dice. Per andare, per modularci. faceva, poi quando non ti serve più pigli la capo, un minuto mi ha staccato. Vabbè, quello c'è il ferro, infatti l'altro io non l'ho attaccata, ma non la sto più usando con quella lì. E né quella dell'altro portatile che c'è, quello che si attaccava a me magnetica. Ma già serve sempre qualcosa di riserva, Vabbè, ma se avessi questo in casa lo useresti sempre. Ce l'ho avuto io, me l'ho fatto anche modificare quello lì da Gigi, ma me l'aveva fatto fare da cosa? Da Giancarlo. Quello lì. Ne ho messo il bip, la scheda colt, eccetera eccetera, ma l'ascolta come tu andavi a parlare innescava la colonnina, non mi aveva già girato le scatole, vedeva il primo giorno, gli ero rispediti indietro, mi ha regolato di nuovo e non mi piaceva le cose che mi dicevano che l'ecco era brutto. Che non è neanche chi si vuole lasciare i cucci come se scende dalla fabbrica, non sono apparecchi da modificare, no? Perché vanno già bene così queste. Però tutto non si possono modificare perché hanno dei microfoni unici, per questo apparato qua non è dinamico il microfono. Quindi come se andare a fare un'ascolta di bruscia, perché ha 1000 ohm. Tutto. Si può modificare, basta che tutto lì, la scheda dell'apparecchio, ci metti la scheda colt, io la comandavo stesso col pulsante che la comandi tu, la scheda colt, c'era scritto ecco, friggivi, e entrava l'eco colt, tu invece che entrava l'altro, entrava l'eco colt perché me l'avevano tolto l'altro. Già, però il microfono vuole cambiare la microfonia. Perché vuole cambiare la microfonia? Perché non è un microfono dinamico, non è 500 ohm, è 1000, quindi devi modificare anche quello. E perché non l'avevo modificato? Io ci avevo CTE con il microfono. Non era quello, non era che l'avevo messo troppo alto in escala, l'avevo messo troppo alto per l'ascolto. No, quello lì già andava bene, e usciva pure tranquillamente, solo che mi dicevano che l'eco non era bello, Bisognava vedere come te la puro. E a volte sai com'è, no? Sai com'è un bel volte, già lo sai che ti fanno investire un capo. Infatti non ho venduto quel camionista che viene da lui, quell'automobilista che viene dal continente. Ci porta lo zucchero con la roba lì a pedalare il zucchero. Quello lì adesso non sta più farendo perché sta scaricando direttamente al Cici e quindi non viene più. Ma è vero ancora, così è. Non so, ma lui gli era piaciuto, gliel'avevo fatto provare, si era ascoltato nell'altro apparecchio che gli era piaciuto un casino. Ma se vuoi perché lo lascio così non me ne frega nulla. Deve essere così come te l'hanno fatto il tecno. Ecco, ma adesso questo qui è nuovo tipo, l'altro è la brutta, usciva al mare. Aspetta che prendo a Marco, che non sta arrivando, Marco le do una bella sciascia. Vai. Aspetta che nel bagno, vai. Thank you. Ma infatti, ma puoi avere l'uno e l'altro, può avere anche l'amplificato dall'altra parte, magari ha un altro tono. Comunque gli americani trovano sempre una più del diavolo, io non avevo mai visto apparecchi con doppio, prima di questi non ne avevo mai visto altro. Tecnologia americana. Sono già un pochettino, tutti si stanno adeguando. Poi adesso gli americani sono sempre stati grandiosi in tutto, e hanno la mania della grandezza, tu e poco di là. Gli americani sono così, non gli basta mai il poco, devono sempre avere di più. Già lo so, già. Loro fanno sempre il top. No, ma mi hanno erone, il fior rudo già. Si è messo di lungo perché c'è caldo, poverino. Sai cosa ha fatto Titi l'altro giorno? Mia moglie, siccome deve essere, non ci siamo accorti, c'è un tastino nel frigorifero che non regola, basso, alto e medio, e sicuramente io, mia moglie o qualcuno l'ha toccato senza rendersi conto e l'ha spento, e quindi il frigorifero ha tolto l'acqua fuori e mia moglie ha preso e ha messo lo straccio davanti perché stava perdendo acqua. Cosa ha fatto Titi? Ha pigliato col muso, se l'ha allargato, il nostro ci ha bagnato e si è coccato sopra. Ma chi va via a casa deve assicurare. Trovate lo straccio avvalente e l'ha bagnato, se l'ha allargato bene, mia moglie l'ha messo così, non tutto quanto per assorbire l'acqua. E lui ha preso, se l'ha tirato, se l'ha allargato bene. Mia moglie ha detto, ma guarda un po' cosa ha fatto. Si è allargato lo straccio per coricarsi. Marco, è entrato dal ubreco, compresa, perché c'era l'acqua. Ma infatti è mezzo stiracchiato. Drome. Domani a mangiare, come se già fanno di invece. Domani a mangiare, già andato a trovare a tutte le sempre fusenti. Ah, è vero che il mattino presto comincia a fare le feste, comincia a fare torrale, cioè a darmi i bacetti, mamma mia. Ah, non te l'hanno leccati, capito? Sì, mi va di tutta la pressa. E mi vuole bene questo gatto. Ma pure c'è se mi ci mette vicino. Oh, ma è un po' più selvatico il Ceres. Di solito quei tipo di gatti lì sono abbastanza masuiti, lui forse perché, non lo so, forse che ha vissuto con Monica, magari Monica molte volte usciva, restava sola, era più, vedeva solo lì, capito? Non c'è sempre avuto quel carattere, quella gara. Ma certo, sono delle buone gatti. Aspetta. Un attimino sopra. Cosa è successo? Poi non potrei chiamare Black anche a Nerone. Nerone si chiama, perché è maschio. Ehi, ma Black è maschile il nome, Black vuol dire nero in inglese, no? Lo chiamano in italiano Nerone. E vabbè, la stessa cosa. Piccolino lui, sta guardando. Il braccio si fa tenere anche tu. Sì. Ci sta oppure si stufa subito? Ma ci sta già. Dopo un po' si stufa perché non amano molto. Sia lei che lui non amano molto fare il braccio. Che ti dirà così? Adesso che è un po' che è vecchiata gli piace. Mi piace che la carezzi. Addirittura sai che ti chiede le carezze. Se tu per dire lo stai accarezzando, poi dico lo smetti, non lo fai apposta. Lui prende, si alza in piedi e ti tocca con la zappa. No, un sacchiotto pare. Ma guai anche se ti trova con i calzoncini corti, che quando va a toccarti dico di aggraffiare. Non è che lo fa apposta, non lo fa per toccarti, però con gli unghi ti graffi. Non ha male gente con cine corde. No, non è che no. Allora, aspetta un attimino. Quando tu lo stai accarezzando, lui, non so se mi spiego, si alza dritto, ecco, la zampa ti tocca per continuare a accarezzarlo, capito? Ti chiede la carezza a lui. Ho detto, se ti trova quel cazzo cinque, come lui si appoggia per toccarti perché ti deve accarezzarlo, ti graffia, perché ha le unghie, no? Come ti si arrampica, ti graffia. Ma non lo guarda tutti però, No, lo fa con me, basta. Con me e con mia moglie. Che sa che siete padrone. All'altro, altro che si alza, mi ha soffiata. No, no, con Manuela, con Manuela è troppo d'accordo, ma mi si corica i piedi, mi si mette vicino. Anche con Marco, no, non mi soffia. Soffiava solo mio padre, perché quando andava a prendere la sedia e lo prendeva sulla sedia, lo mandava via, lo diceva dai vai via che mi devo sedere, e come lo vedeva, arrivare. L'avevo anche graffiato una volta, va di brutto però, dato due zampate, perché lo vedeva come uno che lo scacciava, capito? Uno non è che lo facesse per male, quando va a mangiare lo mandava via, era un male. Cioè, è troppo l'animale, così di una pizza, me. Adesso si è trovato un posto in bagno, perché forse lo trova più fresco. C'è il tappetino sotto il lavandino, no? C'è il tappetino, si corica lì. Perché magari quando ti lavi ne caggi qualche goccia d'acqua, cosa del genere, sarà bello fresco, capito? Non è Marco, no. Poi se ne va a fianco al water. Quando lo sgridi è cosa che ho offeso, se ne va a fianco al water. Maschio il tuo, vero? No, è femmina. Allora è minuccia. Sì, sì. Allora avviciniamo a nero un giorno. Come è sterilizzato? Chiappa. A vedere cosa fa. Ah, che magari si attacca, ragazzi. Non si sa mai. C'era quel cane di fronte a casa che adesso poverino è morto. Un cane di Lucia che aveva uno Yorkshire. E lui dice, mamma mia, mica lo morsi, carino. Ah, ce lo stai, non gli fa niente. Titi, per lui, si avvicinava sempre di più a Titi. E Titi era sposato, era e sposato è rimasto. Quando lui si è avvicinato per morderlo, ha fatto il giro di zampa. Ha fatto cai, cai, cai, cai, dopo sono diventati amici. Quando per dire di piazza parlando con quella di fronte, che uscivano tutti e due, il gatto e il cane, si li annusavano, lui andava a annusava Titi, niente, non si facevano più nulla. Però dopo comprendi, se tu la fatti ci hai detto. Gappa, gappa, vabbè. Oramai Titi è un bel vice, poi non me ne fa mettere altri, mi hanno detto che non ne vuole più dopo. E invece a me, per me gli animali in casa, sono fatto diversamente. Io, mia moglie perché lascia il pelo, questo e quell'altro, si incanta perché deve stare sempre con l'aspirapolvere. Se te ne uno a pelo corto. Mi voleva far dare anche l'acquario, dicevi ci mettiamo un bel mobile al posto dell'acquario, te lo vendi, ma attendandi non me ne vendo gli acquari. Una scena, eh? E poi, ah ma non tanto non me ne vendo, ho fatto il mobile apposta, figurati se da voi me lo vendi. Perché deve parlare che gli animali in casa non ci devono stare, che devono avere il loro posto per stare. Titi è rimasto perché quando ce l'hanno dato lì gli è piaciuto subito e cose, poi però mi ha detto già non lo possiamo tenere in casa, questo e quello, poi è caduto dalla finestra e da lì si è affezionato un bel, non l'ha più mollato. l'abbiamo tenuto per quello, perché se no magari non avrebbe voluto qualcosa a lui. Saluta Gianni. Che bello. Ma quello lì Massimiliano te l'aveva fatto, quellomeno. Negativo. Ma perché quelli si sono più o meno così, no? Più o meno così, ma questo è più bello. No, te sono belli anche quelli lì, sì. Anzi. No, ma siamo di quella razza più o meno, dai. Comunque c'è un bel matto. Europei. Panthers, l'avrei chiamati un Panthers, Pantera. Già. Mi ha chiamato Pantera. Caffa. No, era coricato. Che bello che è. Appunto, pare veramente una Pantera. C'è uno sguardo particolare, c'è. Pagato. È bello comunque, come gatto, bello. Adesso già si gioca col Ceres. Io vado in racco, sempre bicicletta. È tu bicicletta, è tu bicicletta. Fanno viceversa. Ma solo quello se lo mette soldi, è già di brinca sopra. E le musichette alla rete, il fatto di fare un po' di spesso e riuscì a fare. È grossa, Ezio, ma lui diventa così, non è che diventa grosso, Non diventerà mai grosso. Quella è la costituzione di quel tipo di gatto. E deve ci fare un leone. Anche se su internet ne ho visto uno che era spaventoso, la cartina grasso. Ma sono eccezioni, Poi non so gli altri manni. Hai visto su YouTube, l'ha mai visto quello indemoniato? Sì che l'ho visto. Ma ci sono, diciamo, dei gatti tipo come le persone, che sono proprio obesi. Questo qui era. Marco, dove sei? Sale sul letto. E questo qui era proprio obeso, era gonfio, ma era gonfio da pompa. Vedi se c'è un campo minoretto e non puoi provare 90. Caffa. Sì. E cosa va via? Ma no, bello che quando il gatto c'è un capo umano, cioè, quando è tutto il corpo, quando è così è che fai un gatto. Il gatto deve essere normale, normale come è in natura, non così gonfiato. Così è brutto. Vabbè, accesse, però crescendo lì. Ma piano piano fermo lì. Piano piano sta crescendo. Ha visto un attimo quando fanno i con i baffi, non li hai mai visti quando vedo lì se ti volare. No, questo ripiglia proprio. Titi prima con le vibrese, fa vibrare le vibrese, fa i baffi che c'hanno, poi fa vedere i denti, come fa il cane quando è incazzato, no? E dopo la vinghia, ma da questi romani? Il padre di chi? Fa da tiro l'uno, padre. Gappa. Sono un bel cazzo, se lo vedono vicino alla lampadario, l'altra volta stava lottando con una farfalla che andava attorno al lampadario e girava attorno al lampadario che c'era la luce accesa, no? Cazzo, come ogni avrinco non sta la banca, poi ha saltato, detto, mamma mia, ti disibili il lampadario, facci tutti i nomi, ha fatto un brinco. No, e se no brincaggio. C'è una cosa, Antu, i gatti anche quando sono vecchi tengono sempre la stessa agilità, lo sai? Sì, è vero. Cioè, se vedono un topo lo attaccano lo stesso, anche se sono anziani. Sì, è vero, magari più polvorone sì, ma se si mette al pericolo, va a 2 miglia all'ora. c'è giorno da fare. Per dire, quando loro, non so se tu lo fanno, ti di notte sai cosa fa, per dire, ti dimentichi il tappo o una penna sul tavolo, lo butta in terra, sale sul tavolo, lo butta in terra e si mette a giocare, no, se lo passa da una tappa all'altra. E quello lì è la simulazione della caccia al topo che fanno. Chiara, io se l'ho visto, che se sono sempre correndo, che figlia, si scappa il nostro in terra, ma la voce è fatta, lo piglia, si scorrende, si cude tutti i campi di rovi, mamma mia. E così fanno, anche ti fa così. E poi prima se l'ho giocato una zapparata, poi salta, ti salta sopra e lo acchiappano. Chiappa, e così fa proprio, anche lui, vero. Ma l'altra volta si stavano percorrendo con Ceres e si sono curtiti due a Iana, prima uno la poi l'altro, quando si è aperta la porta e dici tu capo attende. Poi una volta che la chiappa si corica in terra e con le zampe di dietro lo prende a calci, l'ha mai fatto? Ah, sì, ce l'ha fatto già. Se no fanno così. Fanno la simulazione della caccia, no? La notte specialmente, perché loro escono di notte i gatti a cacciare. Mi provo pure per dare pesci in curve, no? Sì, sì, è vero. Di giorno dorme un bel. E anche Titti dorme un bel. Ma Titti magari perché è anziano, boh. Ogni tanto già viene, si fa carezzare, va a mangiare, beve e poi si cocca a dormire. Chiappa. No, loro cosa fanno? Dal mattino che mangiano, specialmente tanto la sera c'è il dormito, da poi di notte si ha educata, si scatena, magari si alzano per 5 minuti, da poi si scatenano. Cappagato. Vabbè già dai, è giunta l'ora, io ti devo lasciare, dai. Ci sentiamo tutta domani, alle prossime. E io accianto, dai, ci sentiamo, buonanotte. Mi ha fatto piacere che questa storia abbia funzionato bene, dai, ed è il questo. Kappa kappa, vuol dire che quando volere potere. Kappa. Ma oggi è andata bene, dai, alla grande. No, ma già si può, quando si può fare, si fa. Ehi, a non sbidere, sentiamo. Ma dai, che ti cocco adesso, purtroppo. E domani. Ciao.